minuti. Partiamo giustissimi, non porto assolutamente via tempo che poi vi presenterò al nostro ospite. La fortuna, vero Milena, che ringrazio l'Associazione Biblioficina, Milena, Enrico, così è stato che noi volevamo fare qualcosa del 18, noi alle 18 e la prima scelta era Anstuzzi e ci abbiamo fatto. Già questo è stato veramente una bella fortuna. Poi doveva essere a distanza, invece ce l'abbiamo vero e anche questo ci fa molto piacere. E tutto è nato, vi ricordo molto velocemente, poco prima della pandemia si era deciso alla Biblioteca Baratta di fare un gruppo di lettura della Recherche. Avevamo fatto in tempo a fare due incontri, uno preparatorio, cioè nel senso che abbiamo parlato e abbiamo deciso che i partecipanti si portassero una loro esperienza, ma anche un saggio, un libro, qualcosa da condividere, e alcuni li trovate in quella vetrina, dopo se volete dare un'occhiata, se qualcuno li vuole, là ci sono dei libri che potete prendere, e poi la seconda volta ritrovarsi per parlare e poi decidere come procedere con il gruppo. Poi purtroppo è arrivata la pandemia, ma in realtà poi abbiamo fatto un gruppo su WhatsApp, un gruppo di aiuto, in realtà non siamo stati metodici e bravi, però diciamo che è diventato un gruppo in realtà molto attivo, dove ci siamo confrontati con anche, tra l'altro, dei lettori non mantovani che hanno saputo di questo, tra cui del gruppo Monteverdi di Roma, che sono qui collegate, quindi le salutiamo e le vediamo collegate. Quindi abbiamo detto che prima o poi ci saremmo trovati. Quindi ce l'abbiamo fatta. La notizia è, oltre naturalmente all'incontro di oggi, è che con l'Associazione Biblioficina abbiamo pensato che lo facciamo il gruppo Proust, in presenza e magari con le altre persone, vedremo come funziona oggi, collegate. Quindi io sto dicendo molto lentamente, però adesso vediamo molto, magari ci darà anche Adriano qualche consiglio di come magari procedere, però l'idea, io avevo messo 3 anni, va bene, cioè così abbiamo una bella prospettiva, però insomma lo faremo. Vi porto anche i ringraziamenti e l'accoglienza di Francesca Ferrari, la direttrice delle biblioteche, che poi ci raggiungerà, e grazie, questo volevo fare anche un grande grazie alle bibliotecarie che hanno anche tecnicamente reso possibile questo incontro. Ma lascio assolutamente la parola a Anstuzzi. Se io ero la prima scelta, non oso pensare a chi fosse la terza. Sabato 18 novembre 1922, alle ore 18, secondo la necrologia pubblicata dal Figaro, morì Marcel Proust. In realtà era morto circa un'ora prima. Le testimonianze del fratello Robert, medico, però assistente fino all'ultimo, e della mitica Celeste Albaré discordano di circa mezz'ora. L'emozione in tutta Parigi fu immensa, e questo fa un po' stupire se si pensa alla vicenda dell'opera di Proust. Proust fino al 1913 era stato un borghese di media borghesia, con un padre medico che aveva rivestito importantissime cariche presso la Repubblica Francese, però veniva addirittura dalla piccola borghesia di provincia. Era noto come uno snob che amava frequentare i salotti più esclusivi, aveva pubblicato poche cose, e nel 13, a proprie spese, dopo il rifiuto di Fasquelle prima e della Nouvelle Revue Française, che sarebbe poi diventata Gallimard, aveva pubblicato a proprie spese presso Bernard Grasset il primo volume della sua opera, che allora aveva concepito in 3 volumi. Il primo volume, come sapete, è Du côté de chez soi. Esce nel 13 e riceve poche recensioni, viene presentato al concours dove non riceve nemmeno il voto del presentatore, Rosny Ancien, e poi scoppia la guerra. Scoppia la guerra e la pubblicazione dell'opera si interrompe. Riprende nel 1919 con A l'ombra de Jean-Pierre Fleur. Nel frattempo però è successo che all'estero si sono accorti di Swann e di conseguenza la Nouvelle Revue Française, è notorio, non sto qui a dirlo a voi che siete un gruppo di prustiani, il rifiuto di Gide, il ripensamento e l'auto da fé di Gide, la Nouvelle Revue Française diventa il nuovo editore. Seguono dal 1920 al 1922, anno appunto della morte di Proust, Le Côtés de Guermantes in due volumi e Sodome e Gomorre, anche quello in due volumi. Ormai l'opera cresce. Sodome e Gomorre è l'ultimo volume pubblicato con Proust in vita. Proust riesce ancora a rivedere sui suoi mitici quaderni manoscritti, i famosi cahiers conservati alla Bibliothèque Nationale de France, riesce ancora a rivedere La Prisonnière e La Fugitive, che diventa poi Albertine Disparu, e vedremo perché, non riesce a rivedere Les Temps Retrouvés. Bene, secondo la testimonianza di Céleste, ancora nella notte del 17 novembre, ormai devastato dall'infezione polmonare, Proust scrive e detta delle correzioni alla morte di Bergotte, che è uno degli episodi principali della Prisonnière, appunto, e lo integra con le sensazioni che prova nella sua agonia, un'agonia lunghissima che venne subito paragonata all'agonia di Pascal. E parla della grande futilità dei moribondi, una frase che gli era rimasta nelle orecchie traducendo Ruskin, che è una citazione da Waldo Emerson, nessuno è così futile come un moribondo. Riesce a fare questo e poi appunto nel tardo pomeriggio del 18 muore. L'amico Reinaldo Hahn, immediatamente avvisato, comunica all'altra cerchia di amici intimi di Proust. Arriva Jean Cocteau con Man Ray, che scatterà una foto di Proust sul letto di morte, così come i pittori Le e Desnoyers de Segonzac ne faranno il ritratto. E fa impressione pensare che nella morte di Bergotte, che allora nessuno aveva ancora potuto leggere, come ricorderete, alla notizia della morte, tutte le librerie di Parigi spontaneamente mettono in vetrina tutti i suoi volumi aperti, solo i suoi volumi aperti. Proust ha un paragone bellissimo, come angeli che a dali spiegate attendano il suo arrivo in un altro regno. Bene, fa veramente impressione pensare che Cocteau, nella Camera del Morto, guardando i più di 70 quaderni, tutti rigorosamente numerati, allineati sulla mensola del caminetto, dica nel necrologio che scriverà: parevano vivi, come un orologio che continua a ticchettare al polso del soldato morto. sei mesi prima Proust era stato uno degli ospiti d'onore della cena data sei mesi esatti prima, il 18 maggio del 22, al Majestic dai miliardari inglesi Violet e Sidney Schiff. In occasione della prima del Renard di Stravinsky, con scenografie e balletto di Diaghilev. Gli altri ospiti d'onore, oltre a Proust, Stravinsky e Diaghilev, erano Picasso e Joyce. Fu l'unica volta in cui Joyce e Proust si incontrarono. La versione che ne dà Svevo in un famoso articolo è del tutto di fantasia, arrivata probabilmente da Joyce. Una versione molto più credibile data dal primo e grande biografo di Proust, l'inglese Painter. Ma appunto quello che colpisce, naturalmente i due non dissero nulla di memorabile, come per forza succede fra grandi scrittori che si avvertono oltretutto in concorrenza reciproca e che si Quello che però appunto colpisce è l'identificazione da subito di Proust con la sua opera, sia nella frase di Cocteau, sia nei necrologi, sia nelle testimonianze di tutti i suoi contemporanei in quel momento. Tanto più colpisce quanto più Proust ebbe sempre cura di allontanare l'identificazione dell'autore con la propria opera, al punto da scrivere su questo un'operina, un dialogo con la madre, non a caso, scritto dopo la morte della madre, che si intitola Contre Sainte-Beuve. Sainte-Beuve era un critico che legava molto l'opera di un autore alla vita dello stesso, e Proust invece no. Quindi, tra l'altro, Proust muore a 51 anni, esattamente come Balzac. E questo ci porta alla domanda. Rispetto a quei grandi autori, testimoni, critici e orchestratori della visione di una società, come furono Balzac prima del 48, Flaubert e Zola dopo il 48, come si pone Proust? È un continuatore del realismo? Non è un continuatore del realismo? Uno dei suoi primi grandi recensori non è francese ma è tedesco, Ernst Robert Curtius, che scrisse a Proust delle lettere meravigliose dicendo subito: lei è uno dei più grandi romanzieri degli ultimi decenni e la sua opera ha una caratteristica di unicità. Curtius era un grande studioso della letteratura medievale e trovava in Proust un distillato di 10 secoli di letteratura di Francia. E già questo ci dovrebbe far pensare un attimo. Allora, è anche lui uno di quei sommi osservatori della dimensione sociale collettiva come Balzac? Sì, certo, per certi aspetti sì, però c'è un però. E lo riassume bene in due righe Raymond Aron, che ha definito la recherche un gigantesco pastiche del linguaggio sociale fin de siècle. Allora, intanto qui abbiamo l'idea del pastiche, cioè dell'imitazione deformante che apre delle chiavi di lettura, e dall'altro l'accento sul linguaggio. L'osservazione di Proust è quella di una società ormai in totale decomposizione. La Grande Guerra, si sente, sì. La Grande Guerra ne segnerà la fine assoluta. Già l'aristocrazia, che ancora crede di essere il sale della Francia, è una classe parassita, non è più una classe produttiva da tempo. E Proust osserva tutto questo con un occhio estremamente distaccato, gelido e crudele. È esattamente il contrario di quelli che dicono: ah, mi faccio deliziare da Proust con questi quadri, questa società. Il quadro della società francese che Proust dà è un quadro raggricciante, è un quadro feroce, dove sono messe in luce tutte le miserie, non tutta la meraviglia di questo mondo. È una società in piena decomposizione e il narratore, perché poi arriviamo al punto cruciale, la scelta della voce narrante, il personaggio che dice io, proprio come gli antichi dei, può essere terribilmente freddo e gratuitamente crudele. Altro elemento. La recherche è un lungo itinerario di decifrazione. E questa è la differenza fondamentale rispetto a realisti come Balzac o Zola. La decifrazione più importante ci verrà rivelata nell'ultimo volume, che per chi non l'ha ancora letto, è una delle più esaltanti letture di quanto è stato scritto in tutto il mondo, dall'Iliade ad oggi. E si può leggere anche solo quello, allora. No, Ah, a questo arriviamo dopo, arriviamo a come si legge, magari se lo qualcuno me lo volevate chiedere chiede, tutti, e mi sono arriviamo dopo. sacrificata, eh. Cioè, lo so che tutti lo volevano chiedere, allora io già. Cioè, nella recherche, l'approccio al reale non è descrittivo, ma è conoscitivo. Non so se riesco a rendere l'idea. Certo, tutto è anche perfettamente descritto, ma è descritto in funzione di un messaggio di conoscenza, di un messaggio di conoscenza che non è immediato ed è misterioso. Tutti noi sappiamo che nel primo volume tutto si apre con la memoria involontaria quando beve la tazza di tè con la Madeleine zuppata dentro. Ma quella memoria involontaria è come un angelo che appaia senza essere riconosciuto, senza che la sua lingua venga compresa. È come l'angelo che lotta con Giacobbe tutta la notte senza mai dire esplicitamente di essere un angelo del Signore e perché è lì. Tutto l'approccio alla società in Proust, sia essa una società altissima, quella aristocratica, o bassissima o infima. Ricordo solo che una delle sue affermazioni è che i valletti sono meglio educati dei duchi, tanto per dire che era snob nella vita, ma non sulla pagina. È un approccio non verista, è un approccio da etnografo. Lui guarda dei mondi con l'occhio di un etnografo. Hanno ciascuno le sue leggi, hanno ciascuno le proprie abitudini, hanno ciascuno i propri regolamenti di comportamento, i propri linguaggi, i propri gerghi. E non è un caso che uno dei primissimi appassionati di Proust sia stato il principe degli etnografi francesi, Claude Lévi-Strauss. Allora, per molti critici, da subito, fin dal primo volume, che pure era estremamente complesso da decifrare, tant'è che non a caso venne rifiutato, e uno dei lettori che lo rifiutò dicendo: io sarò un babbeo, ma non capisco come si possano scrivere 30 pagine per dirci che si ha difficoltà ad addormentarsi la sera. Dicevo, è la ricerca della vita. Non pensate al senso della vita dei Monty Python. Il senso della nostra propria individuale vita. E questo si chiarisce lentamente il senso della vita di ciascuno di noi sottratta al dominio e alla tirannia del tempo. Il tempo nella recherche non è quello che Winfried Sebald con una splendida metafora definisce oppio del tempo. Non vi è nessuna nostalgia per il tempo perduto. Non vi è nessun momento in cui la voce narrante dica «Ah, com'era bello quando ero giovane!» e tutto questo non c'è. Il tempo è un tiranno. Il tempo ci distrugge. Ciascuno di noi è destinato a morire e di conseguenza ciascuno di noi deve trovare una ragione per vivere. E quindi, arriviamo al punto, la recherche è un romanzo che narra la genesi di se stesso. Arrivati alla fine, noi torniamo al punto di partenza. È come l'oroboro, il serpente simbolo del tempo, che mangia se stesso, ma è un serpente molto particolare perché non forma un cerchio, è intrecciato nel segno dell'infinito, nel lotto orizzontale che è il segno dell'infinito. E questa è la grande novità ed è la vera grandezza di Proust, fu il primo romanziere a scrivere un'opera del genere con la piena consapevolezza di farlo. Prima di affrontare gli strumenti con i quali arrivò a scrivere tutti i volumi della recherche, c'è anche da coloro che ci ascoltano in remoto, si dice così, mi hanno insegnato. C'è qualche domanda, c'è qualche specifica osservazione o proseguo entrando nella selva del romanzo? Ma questo che ha fatto finora, secondo voi, può essere una sorta di viatico? Cioè quello che è importante sapere anche prima di cominciare a leggere o per chi ha già cominciato, cosa dite? No, vi chiedo. Si può dire che in qualche modo il sentimento della nostalgia invece c'è in quella cosa piccolissima che nella mia edizione Mondadori era un librino, quello sulla lettura? Quella cosa che a volte ammettono insieme. Sì. A me riesce difficile adesso ricordare, perché non per fare lo snob, ma io... Ma certo, immagino lo leggo in originale, quindi non ho presente l'edizione di cui parli. Da Proust, ecco, diciamo intanto una cosa, che il romanzo come lo conosciamo noi, da un punto di vista tipografico, non di contenuto, ma di veste tipografica, è molto diverso da come l'aveva pensato Proust. Proust aveva pensato a un volume dove persino i dialoghi non avevano a capo. Non c'era nessuna riga di stacco bianco, perché proprio era il fiume del tempo. Per nostra fortuna, prima Grasset e poi Gallimard lo convinsero che dei volumi così non li avrebbe letti nessuno. Una cosa però è certa. Lui aveva iniziato pensando a tre soli volumi. La materia gli cresceva notevolmente mentre scriveva. La divisione attuale, che varia da edizione a edizione, ad esempio la prima edizione completa data da Gallimard, la cosiddetta edizione à la Gerbe, sono 17 volumi, perché il German non è spezzato in due come quando uscì in origine German 1 e German 2, ma è spezzato in tre. Sodoma e Gomorra è spezzato in tre, non in due, per ragioni di maneggevolezza. L'edizione del 54 è in tre volumi, altre edizioni, il Livre de Poche, è in 8 o 9 volumi. Ah, quindi quella divisione... l'unica cosa di cui noi siamo sicuri è il gioco di parallelo fra i titoli, e questo mi consente, se nessuno ha interventi da fare, di fare un altro paragone con la Comédie humaine, per dire che non si può leggere la Recherche partendo da un volume a caso. Sia chiaro, c'è chi lo ha fatto e anche dei nomi importanti, Carlo Emilio Gadda leggeva ora questo, ora quello, e chissà perché chiedeva quelli con Charlus che lo divertivano di più. Anche noi, alcuni di noi. Però in teoria non si potrebbe. Poi è vero che, come scrisse uno a Colette Rosselli, alias Donna Letizia, lei ha detto che non si può mangiare il pesce col coltello, punto. Non è vero, punto. Ho provato, punto, si può, punto esclamativo. Lettera che mi copiai, avevo 12 anni, ma trovai geniale. Certo che si può fare, ma Proust non l'aveva pensato così. Lui aveva pensato nella forma definitiva. Du côté de chez Swann, à l'ombre de jeune fille en fleur, le côté de Guermantes, quindi abbiamo la contrapposizione fra la strada di Swann e la strada di Guermantes, Sodome e Gomorra, la prisonniere, la fugitive, altro contrasto, se non che nel 19, qua, nel 21, quando sta pensando al titolo della fugitive, esce un libro di Tagore, una collezione di poesie di Rabindranath Tagore, premio Nobel nel 1913, primo Nobel non occidentale, che esce a New York e si intitola Il Fugitivo. E a quel punto deve cambiare il titolo e diventa Albertine Disparue. Ma anche lì ci sarebbe stato un parallelo, la prisonnière, la fugitive. E infine l'état retrouvé, il tempo ritrovato. Ora, sappiamo anche che Proust fu a lungo incerto sui titoli. Abbiamo interi elenchi di titoli ai quali poi rinunciò. Il più noto è forse Les colombes poignardées, le colombe pugnalate. Pensate invece che Balzac, per la sua Comédie humaine, che si compone non di così pochi volumi, ma di 137 titoli, aveva come prima cosa sicura di ogni libro il titolo. Allora, intanto abbiamo Scene della vita in provincia, Scene della vita in città, e poi chiarissimo il titolo. Allora, il titolo indica un'unità nucleare. Il fatto che Proust avesse un'assoluta incertezza sui titoli delle singole parti, mentre gli era chiarissimo il titolo generale alla Recherche du temps perdu, significa che egli lo pensava come un unico romanzo. De Côté de chez Swann si sarebbe dovuto intitolare in un primo momento Jardin dans une tasse de thé, Giardini in una tazza di tè. E questo ci conferma che nasce come una concezione unitaria. Del resto, anticipo qui una cosa che pensavo di dire più tardi, è notorio ed è testimoniato dalla struttura dei quaderni che dopo aver scritto la prima frase del primo volume, scrisse l'ultima frase dell'ultimo. E come facciamo a saperlo? Dai quaderni. Se tu puoi entrare, una delle utilità di questo aggeggio, oltre a essere disturbati ogni mattina, ti diamo le notizie, c'è brina, c'è nebbia, tu sei brutto, eccetera, è che puoi entrare alla Bibliothèque Nationale de France e guardare tutto ciò che vuoi. E lì si vede, dalla numerazione dei quaderni, dalla struttura delle frasi, che è così, non lo disse apposta, fu così. L'ultima frase del tempo ritrovato ha quattro versioni. Fra la terza e la quarta c'è la parola fine. Quale delle due versioni finali tenere? E qual è la differenza fra le due precedenti? La differenza sta in una sola parola pregnante, che questi vecchioni, che lui non riconosce più in un primo momento, quella piccola intrigante borghese della Verdurin è diventata la principessa di Guermantes, e chi arriva dall'America crede di conoscere la principessa di Guermantes, mentre come la contessa Marta Marzotto è la figlia del ferroviere. Niente di male a fare il ferroviere, eh? Di male a fare certe figlie magari. E tutto questo lui a un certo punto lo risolve. In un primo momento parla di mostri, parla di creature mostruose che camminano su colonne di giorni accumulati. Poi trova l'immagine dei giganti, che non è un'immagine di giganti come valore umano, è che noi, come si usa dire, cresciamo d'esperienza e cresciamo d'anni. Ecco, questa crescita lui la rappresenta come se sotto ogni nostro passo si incollasse un foglio di carta mosticida e alla fine, arrivati a 80 anni, moltiplicati per 365, questi fogli si sono impilati e ci hanno reso delle creature irriconoscibili, che tuttavia hanno il nostro stesso nome. E anche questo, al di là di tutto, fa capire che c'è un inizio e una fine. Voi direte, ma anche nel Balzac, se io leggo Splendeur et misère de Courtisan prima di leggere L'illusion perdue, mi vedo la morte di Lucien de Rubempré prima che diventi. Sì, d'accordo, ma sono casi abbastanza sporadici. Un romanzo di Balzac è il secondo. Uno dei volumi della Recherche non è in sé concluso. E anche qui potrei citare il caso della divisione fra un Albertin Disparu e il precedente, che Proust vuole rompere in un punto in cui la vicenda non è conclusa. Come nelle serie televisive oggi, che finisce con... Ma lui non lo vuole fare perché la gente vada a comprare il volume successivo, ma per far capire che è un continuum, che è spezzato solo perché uno non può tenere in mano un volume di 4.000 pagine. No, quindi, prima indicazione che ci hai dato, ho già capito. Facciamo il programma e andiamo in ordine. E tutti devono seguire quell'ordine. Giusto? Sì. Questo abbiamo già messo, ho già capito. Va bene. È così. Siamo a posto. Va bene. Allora, poi magari ci consiglierai dopo, quando sì, un attimo metti che lo dia, le edizioni, anche una domanda che abbiamo preparato. Le edizioni italiane. Se hai un attimo sulle edizioni italiane. Questo ci interessava. Beh, posso dirlo subito questo, non ho problemi. Allora, la prima edizione tradotta in italiano della Recherche fu un'edizione Einaudi. A dir la verità, un piccolissimo editore durante gli anni della guerra, un piccolissimo editore romano, mi pare, aveva pensato di tradurlo, ma poi la traduzione Einaudi gli tagliò le gambe. La traduzione Einaudi vede affidare ogni volume a uno scrittore italiano diverso. Natalia Ginzburg, poi per Sodoma e Gomorra mi viene in mente So Caproni, ricordo Giorgio Caproni, eccetera. Esiste poi la traduzione unitaria fatta da Giovanni Raboni. Credo che queste due edizioni, quella di Raboni e quella classica Einaudi, siano le due alle quali fare riferimento, scegliere o l'una o l'altra. È chiaro che con Raboni abbiamo la mano dello stesso traduttore e di un traduttore che viene da una grande conoscenza non solo della letteratura francese ma anche della lingua italiana, non che la Ginzburg, Caproni e gli altri non l'avessero, però lì cambia un po'. Cambia un pochino la voce, ecco, mentre la voce in Proust è importantissima. Al punto che Caproni disse che aveva tradotto l'ultimo volume, Il tempo riprovato, un po' alla garibaldina, senza andare a rivedere, andare a correggere, andare a ripensare, per rispettare il fatto che quello era l'unico volume che Proust non aveva avuto modo di rivedere. E quando Proust rivedeva, per i compositori di allora che componevano ancora in parte a mano, comunque erano problemi, perché aggiungeva intere parti, toglieva altre, poco, asciugava magari le frasi, ma aggiungeva intere parti. Questo con Il tempo ritrovato non riesce a farlo. Si avverte anche che lo ha fatto meno, con meno tempo a disposizione e meno forze a disposizione per Albertine Disparu, perché la Venezia di Albertine Disparu probabilmente, se l'avesse rivista, sarebbe stata ancora più cupa, più misteriosa, più arcana, e forse anche più contaminata. Ma adesso arriviamo alla contaminazione. Quindi io vi suggerirei o Raboni o Einaudi. Forse quella Mondadori che avevo io era quella Raboni. Di Raboni. Ok, va bene. Ora, per narrare tutta questa storia, che ha inizio con un bambino che in un paesino di provincia, con un nome di fantasia, Combré, che fonde insieme Ilier e Auteuil, il ramo materno e il ramo paterno, che in una prima stesura della Recherche, perché sapete che sono usciti anche i primi 75 foglietti ritrovati che aveva Bernard de Fallois, erano separati, invece diventa un unico paese, l'infanzia ha un unico luogo e c'è un motivo. Ecco, questa storia che inizia con un bambino che non riesce a dormire e finisce con un uomo maturo che, andando a una matinée dei principi Guermantes, incontra uno dopo l'altro dei nunzi angelici. Il primo è una pietra sconnessa del cortile, poi ci sarà il settimino di Venteuil che risuona, poi ci sarà la prima edizione di Fernand Champy, che la madre gli leggeva da bambino, poi tutta una serie di angeli che spalancano porte e si sale di cielo in cielo, come nel paradiso dantesco, fino alla rivelazione. Ecco, come fa a scrivere tutto questo? Che scelte tecniche, intendo dire, fa? Allora, fra l'altro ricordiamoci che la Recherche inizia e finisce con la stessa parola, longtemps, temps. A lungo, in italiano si perde il lungo tempo, ma insomma per lungo tempo è tempo. La prima idea è di non scegliere un narratore esterno, una voce oggettiva, così comune nell'Ottocento, il narratore onnisciente, ma di dare la parola appunto a quello che viene normalmente definito dai prustiani il personaggio che dice io, cioè il narratore. Longtemps je me suis couché. Per lungo tempo sono andato a letto, quel sono è l'io della voce narrante, che non è Proust. Il narratore è un narratore attivo, perché è un personaggio, anzi, è il personaggio che lega fra loro mondi e personaggi diversi. Ed è quindi un testimone e un modulatore, e ancora a notarlo, sia delle voci, della voce appartenente all'autore, sia delle voci dei personaggi appartenenti ai vari corpi sociali. Ora, l'uso delle voci ed è un po' paradossale pensando alla fama che accompagna Proust legata al suo usare frasi descrittive lunghissime, no? Ma l'uso delle voci è un qualcosa che tiene a modello l'oralità. Proust stesso, in uno dei volumi della Recherche, scrive: per dipingere compiutamente una persona occorrerebbe che l'imitazione fonetica si unisca alla descrizione. Lui era un formidabile imitatore degli amici, soprattutto di Robert de Montesquieu, col quale non a caso ebbe poi dei problemi a spiegargli che le sue imitazioni erano un omaggio, altro che omaggio. Faceva ridere tutti gli uditori imitando Montesquieu. E ricordiamo un'altra cosa: la letteratura nasce orale. Gli aedi, gli scaldi, cantavano. Omero, e come Omero, le voci che rappresentano Omero, sia nell'Iliade sia nell'Odissea, dove c'è quella scena bellissima della prima edizione di Ulisse, no? Il rivelamento di Ulisse, quando sente il cantore narrare le sue stesse imprese a Troia. Omero cantava i libri dell'Iliade che noi leggiamo. Vorrei ricordare quindi che l'oralità è un aspetto molto legato al mito, perché la letteratura nasce con l'occhio rivolto al mito. E questo ci porta non solo a un concetto etnologico, e quindi ritorniamo a Claude Lévi-Strauss, grande ammiratore di Proust, ma ci riporta anche a un'idea di sacro. Ciò che è legato al mito non può ignorare la sacralità. In più potremmo anche ricordarci che, non so, Flaubert si rileggeva a voce alta, perché proprio nella voce, nell'emissione della voce, sentiva il ritmo della prosa. Ma al di là di questo, vorrei adesso concentrarmi sull'idea di sacro, inteso come senso panico dell'esistenza, che è molto presente nella Recherche. Proust era ebreo per parte di madre e comunque ariano e cattolico per parte di padre. Le etichette sono sempre sgradevoli, ma era ateo sostanzialmente, totalmente ateo. C'è una sua frase bellissima in cui dice che bisogna fare come le vergini sagge, lavorare fino all'ultimo, perché la luce del sole ha una sua fine. E dice: prendo questo paragone da un libro che mi è totalmente estraneo, cioè la Bibbia, il Vangelo. Ma nel suo essere si può essere atei e si può essere certi dell'esistenza del sacro. Essere atei, in realtà sarebbe meglio dire essere agnostici, significa semplicemente rifiutare le religioni, ciascuna delle quali riduce il sacro a una misura parziale. Ora, noi non possiamo dimenticare che il sacro per gli antichi si manifestava attraverso segni. Pensiamo soltanto alla rusticina, no? La lettura del cielo, la lettura delle viscere. Bene. Uno dei critici di Proust, un proustiano, Gilles Deleuze, scrive che il problema di Proust è quello dei segni in generale. Segni che costituiscono mondi differenti, vacui segni mondani, segni mendaci dell'amore, segni sensibili materiali e infine segni essenziali dell'arte, capaci di trasformare tutti gli altri. Ecco, A noi viene subito in mente uno dei primi segni, che restano però ancora muti alla coscienza profonda dell'autore, i campanili di Martinville. Lui sente che quei campanili, chi leggerà capirà meglio perché è tutto giocato sui cambi delle prospettive all'interno del paesaggio, lui sente che quei campanili gli dicono qualcosa, ma non riesce ancora a decifrare la lingua. Quante volte noi parliamo di caso, di coincidenza, dimenticandoci che il caso e la coincidenza non sono che gli pseudonimi del destino che ancora non si è rivelato. Ecco, questo è il senso del sacro che c'è nella recherche. E questo sacro avrà appunto la sua manifestazione più alta nel momento in cui, nel tempo ritrovato, questi segni finalmente vengono decifrati, parlano con una voce che l'autore riesce a capire. E il loro messaggio è illuminante e dà un senso a tutta la sua vita, che fino a quel momento non aveva avuto un senso, era stata una ricerca di senso. E un altro critico, René Girard, come vedete ho studiato, no, non sono venuto poi, qui così. Altro che critici, Delors, Girard, cioè grandi, no, non solo critici di Proust. Ha notato che in Proust il contrario di sacro non è l'assenza del sacro, ma la perversione, la corruzione di ciò che è sacro. E questo che cosa significa? Significa che torniamo alla società in dissoluzione. Ogni società in realtà è perversione del sacro. Ogni patto sociale, anche il migliore, è già, ha già in sé la perversione del sacro. Ed è questo il motivo perché c'è una Combré dove si può pensare che l'infanzia sia più vicina al sacro e innumerevoli salotti mondani, o innumerevoli bordelli, o innumerevoli vicende amorose dove ci si degrada, dove ci si umilia per questo sentimento. L'arte è ciò che salva da tutto questo. Avete tutti presente, se non altro perché come me l'avrete scoperto in Philadelphia, nel film Philadelphia, l'aria dell'Andrea Chenier, La mamma morta. A un certo punto dice: tutti intorno è sangue e fango, io son l'amore, io son divino, io son la vita. Ecco, l'amore per Proust non è divino. Ciò che è divino è l'arte. L'amore per Proust è una ripetizione del disinganno. L'amore per Proust è un entrare nello scorrere fisico del tempo accettandone la dissoluzione, e non aiuta a sapere le esperienze degli altri. Quando leggerete Swann avrete una parte che spesso viene pubblicata a sé stante, Un amore di Swann appunto, quello in cui Swann si innamora di Odette de Crécy, oggi si direbbe escort, con una quelle volgarità di questa età volgare, allora era una donna di mondo, e proverà per lei, dopo averla sposata, i più atroci tormenti della gelosia. Il narratore lo sa. Il narratore lo sa perché questo gli viene raccontato. E però lui ripeterà pari pari lo stesso errore di Swann. Vedrà Charlus degradarsi per amore del violinista Morel. E lui ripeterà pari pari la stessa degradazione per Albertine. Ora, la definizione della recherche come Bibbia della gelosia non è del tutto molto gratuita. Fortini parlò di un universo curvo e chiuso in cui si ripete il ciclo dell'illusione e del disinganno. Bene, da questo mondo di infelicità terrena, per Proust, soltanto l'arte ci può salvare. Meglio se noi siamo artefici di questa arte. Swann potrebbe essere un modello per il narratore, ma Swann si limita a piccoli articoli, vorrebbe scrivere un'opera tecnica di storia dell'arte che non scriverà mai, è un esteta e morirà devastato dal cancro in quella splendida scena dell'incontro con i duchi di Guermantes che vanno alla festa e non hanno tempo da perdere col caro amico Swann. Morirà prima di poter aver concluso questo suo studio e quindi non lascerà nulla. Se noi siamo artefici di qualcosa che ci sopravvive nel tempo, ecco che allora avremo la possibilità di aver sconfitto questo mostro dalle mascelle. Mi viene sempre in mente il diavolo nell'inferno dantesco, no? Che mastica, mastica, mastica i tre grandi traditori. E non so, avrei qualche altra cosa da dire, ma magari prima c'è qualcun altro che vuole. Prego. Sì, avrei qualche altra cosa. Sì, sì, no, se ci fosse un servizio di catering, io vado avanti fino alle 2 del mattino, se volete. No, ma anzi, noi saremo anche ad ascoltare. No, direi che ci ha dato un sia per chi l'ha letto che per chi non l'ha letto. Cosa dite? Comunque, questa cosa molto colpito anche dell'etnografo, questo. Guardiamo se c'era qualcuno che voleva intervenire online. Sicuramente questa indicazione che ci hai dato anche. Del sacro, io ti volevo chiedere però, ma tutto questo che tu ci hai detto, cioè Proust era consapevole di questo, noi, o è un'interpretazione che abbiamo dato noi, o tutte e due le cose? Diciamo che se un'opera contiene solo e soltanto ciò che voleva metterci l'autore, non è una grande opera, è ovvio che qui vi sono delle cose che travalicano la fredda concezione di partenza di Proust, ma il fatto che già ci siano dimostra una incredibile potenza di genio. Okay. E fra l'altro nella recherche vi sono dei rimandi così minuscoli, così incredibili che a una prima lettura sfuggono, a distanza di migliaia di pagine si rimanda e si riprende un qualcosa. Dopodiché, cioè è veramente quando lui paragona la propria opera a una grande cattedrale, ha ragione, perché la cattedrale noi la vediamo nella sua unitarietà e ci sovrasta e ci stupisce. Poi però possiamo andare a vederla vetrata per vetrata, cappella per cappella, statua per statua. Tutta questa ricchezza nella recherche c'è. Poi ci sono dei colpi di genio profondo, naturale, assoluti. C'è un sogno di Swann. Sì, è vero, i libri di Freud erano usciti, però insomma siamo ancora in anni in cui non è che sia così. Quando esce il primo volume siamo nel 13, sì, Freud ha già scritto l'interpretazione dei sogni che è del 1899, una delle poche date facili da ricordarsi. Però il sogno di Swann è incredibile, il particolare del Fez. Solo il particolare del Fez è qualcosa di strepitoso se si pensa poi all'analisi completamente sballata, perché la fiaba non nasce così, che Freud fa di Cappuccetto Rosso. Non lo so, ci sono infinite cose. C'è però... Però c'è un architetto, c'è... Cioè non solo c'è l'architetto, ma c'è anche un architetto che ha saputo creare un ambiente dall'acustica incredibile, per cui le risonanze tu le cogli a distanza di migliaia di pagine. Poi c'è un architetto che quando vuole essere tranchant è tranchant, noi pensiamo sempre appunto le frasi chilometriche da Polipo, le frasi Medusee di Proust, ma ci sono degli episodi in cui una battuta definisce una persona e ti crolla il prestigio di un mondo. Potrei raccontare l'aneddoto degli asparagi, ma prima volevo, se siete d'accordo, accennare ad alcune difficoltà che uno scrittore ha nel momento in cui sceglie una voce narrante interna al romanzo, come fa Proust. Qui sì, ci sono alcuni piccoli punti dove a rileggere uno dice ah, e come? Allora, l'io narrante deve essere tanto testimone quanto spia. Sappiamo tutti della scena di Mademoiselle de Venteuil che sputa sulla fotografia del padre e poi bacia alla francese, visto che siamo in Francia, la amica amante. Scena, diciamocelo, nel 1913 abbastanza conturbante. E lì non c'è problema. Il narratore sta passando nella campagna vicino a questo cottage che ha tutte le finestre aperte, d'accordo? Però noi passiamo davanti alla finestra aperta della casa privata, mica ci mettiamo lì a guardare cosa fa quella là? Sputa sulla fotografia del padre. E come fai a sapere che è la foto del padre? Qui c'è una piccola smagliatura, ma l'effetto è talmente potente che noi ci passiamo volentieri sopra. Peggio è quando la spia diventa anche qualcosa di peggio. Ho detto due volte peggio, vabbè, mi è scappato. Se stessi scrivendo, correggerei. Più imbarazzante è quando il narratore scopre qualcosa di peggio. Andiamo alla apertura di Sodoma e Gomorra. È invitato a una festa dai Garbant, ma per una serie di ragioni arriva prima, arriva dopo, non sa bene, e vede Charlus che entra in una delle botteghe ricavate dalle vecchie stalle interne. E perché gli va dietro? E perché entra fortuitamente, era aperta nella bottega, nello sgabuzzino di fianco? E perché, sentendo improvvisamente la voce di Charlus di Jean-Pierre, non se ne va? E perché improvvisamente, sentendo dei rantoli in cui salivano di un'ottava, di una voce diversa, dopo aver sentito prima queste anfanare pesante e basso che avrebbe fatto pensare a un uomo che ne stesse sgozzando un altro, se l'intensità del piacere non avesse reso evidente che c'era un rapporto carnale, invece di andarsene, piglia anche una scala, dimenticata lì fortuitamente, sale e guarda. Questo non è più essere testimoni, questo è essere delle spie. Dopodiché, mentre Charlus, questo personaggio schifiltosissimo, raffinatissimo, si lascia andare mentre si sentono i rumori di un'acqua per sciacquarsi, a un commento non proprio aristocratico: "Quel piston vous avez?" Traduzione italiana: "Mazzalo che batacchio che ti ritrovi." Il nostro si dà alle famose pagine della spiegazione, l'orchidea, l'ape, l'insetto. Calabrone. Sì, il calabrone. Ora, immaginate lo shock di una lettura del genere nel 1921, dove queste cose si facevano, ovviamente, eccetera, però... Ma non contento di questo, il nostro narratore dopo ci narra che un duca aveva incontrato, la cosa è così diffusa, dice, a Parigi, ed è un modo anche per superare le differenze sociali. Perché ad esempio un duca, il duca dei Tali, incrociato sugli Champs-Élysées, un giovane molto... ha con lui una relazione, ma naturalmente per non compromettersi finge di essere inglese e di non parlare neanche mezza parola di francese. Quale è dunque la sua sorpresa quando, salendo lo scalone del palazzo dei Guermantes per una grande festa, vede il suo misterioso amante che è il valletto che annuncia i nomi, dando il colpo di bastone? Ha un momento di mancamento. E invece il valletto, soffuso di un rossore di piacere, enuncia con voce stentorea il suo nome con tutti i suoi titoli. Allora, chi te l'ha raccontata sta storia, caro narratore, che dice io? Il valletto? E tu come mai frequenti quel valletto? Il duca? Poco probabile. Questo è un altro punto in cui le difficoltà tecniche saltano fuori. Però, ripeto, il romanzo è di una tale potenza e anche di una tale gioia di raccontare che noi ci passiamo volentieri sopra. Ovviamente, se si fosse chiesto a Proust se l'aveva raccontato il valletto, lui avrebbe sgranato tanto d'occhi, perché tutta la sua vita fu costruita per dimostrare che no, non c'entra niente quella cosa lì. Però nella prigioniera, a un certo punto Albertine scrive alla voce che dice io delle lettere. Dice, mi scriveva, mon cher, mon petit e cher et petit erano seguiti dal mio nome. Il che sarebbe... scrive, come se, qualora l'autore di questo romanzo fosse il personaggio che dice io e così non è, lei dicesse mon cher Marcel, mon petit Marcel. È un contorsionismo che è anche il piacere tecnico che un autore ha quando gioca con le identità. Però, ragazzi, ricordiamoci che nel bordello di Jupien c'è sì Charlus incatenato che si fa frustare, ma nel bordello di Albert Le Cuisiat, che è il modello del bordello di Jupien e che era arredato con i mobili dei genitori di Proust, Proust del quale nessuno tranne Le Cuisiat conosceva l'identità, era noto col soprannome di Uomo dei Topi. E non certo perché i garzoni di macellaio e militari in libera uscita avessero letto Freud. Ora, se voi volete avere un approccio critico che integri la lettura della recherche, vi suggerisco, intanto. L'Arcibald, sì, alcune le abbiamo messe. Sì, decine di centinaia di critici hanno scritto su Proust. E naturalmente, più passa il tempo, più la conoscenza degli originali, dei manoscritti, eccetera, permette un'analisi più profonda. Però, come primo impatto, io vi suggerisco due letture, una dopo l'altra. Stiamo parlando di 600 pagine l'una, eh? Lo dico subito. Una è la biografia di George Painter, uscita pochi anni dopo la morte di Proust, che resta un modello di biografia inimitabile. Non vorrei commuovermi, ormai mi commuovo anche guardando la pubblicità della Coca-Cola, ma ve la suggerisco anche perché venne tradotta da due persone che conobbi, una delle quali è stato uno dei miei maestri. E l'altra, e questa è una biografia che vuole anche essere critica, ma è stupenda, è una lettura stupenda. L'altra invece è una critica che si pone come sottoforma di biografia, un'opera stranissima, l'ha scritta il più grande studioso vivente di Proust, Jean-Yves Tadié. Si chiama Vita di Marcel Proust, edita in italiano da Mondadori, ed è stranissima perché procede per anni intrecciando le vicende autoriali di Proust, che scrisse sempre nella sua vita, ma pubblicò pochissimo prima, e nulla di paragonabile alla recherche. Le vicende autoriali di Proust alle vicende della sua vita. Sono due letture che si compenetrano molto bene. Mandando sul gruppo. Prego? No, sto mandando sul gruppo per quello che mi Sì. stavo guardando, glielo mandavo. Jean-Yves Tadié. Sì, lo sto mandando. E poi, voglio dire, L'angelo della notte di Macchia. Una sera al Majestic di non mi ricordo più come si chiama, un doppio cognome, un inglese che parla appunto di questa festa data dagli Schiff e da lì parte per narrare di Proust e dell'opera. Insomma, ci sono la bibliografia su Proust è veramente infinita. C'è uno splendido saggio di Curzius sugli elementi ritardanti in Proust. Ci sono due monografie, anzi, una di Curzius e una di Leo Spitzer, altro grande critico viennese. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io ripeto, ogni tanto mi riprendo Painter e Tadié e mi rileggo dei singoli capitoli, così per il piacere di leggerli. Accompagnano la lettura della recherche in modo molto molto valido, molto empatico e documentatissimo, soprattutto. Mi sto scrivendo, dopo lo mando al gruppo, mi mando con la cosa della biblioteca. Adesso però chiedete qualcosa anche voi. Parlato degli asparagi. Ah, gli asparagi. Ecco, vedi che sono attenti, Allora, sono attenti. nel 1995, in una libreria antiquaria milanese, era messo in vendita un volume, una copia della prima edizione, anzi parliamo da bibliofilo, era messo in vendita un esemplare della prima edizione di Sodoma e Gomorra, con una lunghissima dedica autografa di Proust a Elisabeth de Clermont-Tonnerre. Elisabeth de Clermont-Tonnerre era nata Elisabeth de Gramont, duchessa di Gramont. Aveva sposato il duca di Clermont-Tonnerre, che era non solo un violento, ma un depravato, sono loro la coppia presso la quale, sull'auto guidata da Agostinelli, che Albert Agostinelli, che diventerà Albertin nel romanzo, Proust si reca in visita in Normandia e Agostinelli, con i fari della macchina, illumina il rosetto del quale la duchessa andava orgogliosissima. È una pagina molto famosa. Ecco, Elisabeth de Clermont-Tonnerre fu la prima aristocratica a divorziare dal marito. Un divorzio che destò scandalo, anche perché poi si mise in coppia con l'americana Natalie Clifford Barney, la contessa, quella delle lettere all'Amazon di Rémy de Gourmont. Era quindi un personaggio ed era una grande ammiratrice di Proust e fu fra i modelli della duchessa di Guermantes. In questa dedica, che conosco a memoria, anche se non posso più leggere perché è finita oltreatlantico, ma qualche volta il bisogno obbliga, Lei, Proust scriveva, qui non si parla di pere ma di asparagi, facendo riferimento a un libro sugli antichi frutti di Francia scritto dalla duchessa. Il riferimento alle pere ci riporta alla prima serata Germano. Ma questa degli asparagi invece è proprio in Sodoma e Gomorra, c'è una cena e il duca di Guermantes dice: quel buon, che tipo, voleva farmi comprare un quadro di Elstir, Elstir è con Fentei e Bergot, la Trimurti che incarna l'arte nella recherche, Elstir è la pittura, Fentei la musica, Bergot la letteratura. Volevo farmi comprare un quadro di Elstir intitolato Mazzo di Asparagi. E cosa c'era in questa tela? Un mazzo di asparagi, e basta. E Elstir voleva 300 franchi per un mazzo di asparagi. Beh, io al mercato li pago molto meno, li pago un Luigi, e se proprio sono delle primizie. E noi vediamo subito, a questo punto, la aristocrazia del duca precipitare violentemente. Ma quale non è stata la mia sorpresa, anni dopo, leggendo un libro molto fortunato, Un'eredità di Avorio d'Ambra, scoprire che il mazzo di asparagi, 20 per la precisione, era stato dipinto da Manet. Ed era stato comprato da Charles Fussy, che insieme a Charles Haas è uno dei modelli di Swann. Non solo, Charles Fussy l'aveva pagato, dunque Manet chiedeva 800, Manet che era uno dei modelli di Stier, chiedeva 800 franchi, e Fussy, che sapeva che il pittore si trovava in un momento non facile, gliene diede 1000. E pochi giorni dopo si vide arrivare un minuscolo quadretto con un solo asparago e il biglietto era scivolato fuori dal mazzo. Allora, questo per dire come veramente ogni libro rimanda ad altri libri e dietro ad ogni libro c'è tanta, tanta vita. Ogni grande libro, se vogliamo, c'è tanta, tanta vita. E quindi gli asparagi servono a Proust per spogliare in una battuta l'aristocratico sposo della più intellettuale fra le grandi duchesse, spogliarlo di ogni prestigio intellettuale, morale, ma anche semplicemente di pura eleganza. Del resto, il padre della duchessa di Grammont invitava alle feste Proust e la contessa Anna de Noailles soltanto in considerazione del fatto che li considerava i due personaggi più buffi di tutta Parigi, naturalmente di tutta la Parigi che frequentava lui. E così è la vita, insomma. Noi ricordiamo il duca di Grammont soltanto perché aveva assicurato a Napoleone III che l'esercito era pronto, una guerra contro Bismarck e la Prussia si sarebbe vinta in 3 settimane. Proust lo ricordiamo per altri motivi. Non c'è bis. E da bibliofilo, e la recherche è un libro che ha una storia anche bibliofila. Sì, sì. Intanto, cioè, tu, per esempio, la domanda era molto, adesso te la dico, tu hai qualche edizione? Io avevo, come ho detto prima, avevo un esemplare della prima edizione di Plaisir et Jour e questo esemplare della prima edizione di Sodoma e Gomorra, che sono andati oltre Atlantico. Ho a casa la prima, che vale infinitamente meno, la prima edizione completa con la stessa veste tipografica di Gallimard, appunto l'edizione detta La Gerbe, o altre opere, però sai, molte prime edizioni di Proust furono postume, ad esempio la più famosa, La scoperta di Jean Santeuil. Jean Santeuil è una sorta di possibile recherche totalmente mancata per diversi motivi. Il primo è che a Proust non è ancora chiaro qual è il messaggio di questi misteriosi oggetti, questi misteriosi signa, no? Ogni signum è muto. E poi, diciamolo pure apertamente, una ragione più profonda è che la madre è ancora viva. Deve nascondere troppe